Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati oggi a questo appuntamento con i libri di economia. Parliamo con Igor Righetti. Buongiorno Igor. Buongiorno direttore, buongiorno agli amici ascoltatori che ci stanno seguendo. Igor Righetti, forse l'avete riconosciuta, è un giornalista, docente di teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo, conduttore anche radiofonico su una radio concorrente fino a qualche mese fa, ma la passione per il comunicare è in fondo nel suo DNA, oltre che nelle sue corde vocali. E quindi questo libro, che fa seguito ad altri libri dedicati alla comunicazione, punta sul fatto che la comunicazione è un successo. Qual è la caratteristica di questo libro, Igor? Ecco, comunicare un successo, proprio fornire gli strumenti per lavorare in questo amato e odiato, a volte bistrattato mondo della comunicazione e dell'informazione, quindi dalla radio alla TV, dai giornali ai nuovi media, dalle redazioni pubbliche agli uffici stampa, che sono oggi fondamentali per un'azienda, ma non soltanto, dal marketing alla pubblicità. Ma credo che questo libro sia utile anche a tutti coloro che vogliono comprendere i meccanismi che regolano il nostro mondo, il mondo dell'informazione in Italia, perché poi il mondo di tutti, nel senso che se l'informazione è libera e oggettiva, o comunque se l'informazione informa davvero, è importante per tutti. Certo, poi abbiamo questo grosso problema in Italia, che alla fine i giornali, la maggior parte dei nostri giornali viene fatta per gli editori, che spesso hanno appunto altri interessi e non per i lettori. Ecco, poi i giornalisti hanno spesso il vizio di parlarsi un po' tra di loro, più di parlare, sì, dando per scontato che il pubblico possa stare a sentire. Ma il libro offre appunto una panoramica della comunicazione in tutti i suoi aspetti, non solo quella giornalistica, non solo quella pubblicitaria, ma anche quella dell'entertainment, quella dei nuovi media, quella della comunicazione d'impresa. Ecco, mi sembra che una delle caratteristiche sia il fatto che c'è certamente la regia di Igor Righetti dietro questo libro, ma poi ogni capitolo ha un suo protagonista, che è anche qualcuno che lavora direttamente nell'ambito di cui si parla, per esempio le agenzie di stampa, c'è Gian Piero Gramaglia che è il direttore dell'ANSA, sulla creatività c'è Domenico De Masi, quindi ci sono le firme migliori, Igor Righetti. Sì, ci sono 47 tra i maggiori grandi professionisti dei vari settori, come hai giustamente detto tu direttore, c'è appunto nel giornalismo, c'è il direttore Corriere della Sera Magazine Giuseppe Di Piazza, c'è l'informazione televisiva, c'è la comunicazione pubblica, quella politica dove per la prima volta hanno scritto 6 grandi politici italiani dei vari schieramenti, quindi troverete Italo Bocchino, Irma e Terialacci, il ministro Meloni e Gentiloni, Capezzone ed altri, insomma. Quindi poi c'è naturalmente il capitolo sulla voce, perché è fondamentale, sul discorso del doppiaggio e dell'utilizzo della voce con Fiamma Izzo, c'è quello dell'importanza della marca con le grandi presidenti amministrati di multinazionali e società, grandi società italiane, cioè il presidente Lamberto Valerino Gancia della Gancia, insomma ci sono, c'è Hermès, l'amministratore delegato, ci sono grandi personaggi, questo proprio per il saper fare, no? Proprio che illustrano senza pontificare, senza linguaggio archeologico, quindi quello appunto comprensibile ai pochi adepti, perché io ho sentito proprio la necessità di fornire gli strumenti utili di comprensione sia agli studenti di scienze e innovazione, relazioni pubbliche, scuole di giornalismo, pubblicità, moda, design, ma anche ai tanti professionisti e anche a tante persone che oggi devono rilasciare un'intervista in radio, in TV, su un giornale, perché oggi se non sei visibile non esisti. Questo ormai oggi più che mai devo dire, perché questa è ormai la società dominata dall'immagine, per cui anche il fatto, e qui entriamo nell'economia, anche il fatto di chiudere in questo momento di crisi, molte aziende approfittano per mettere in cassa integrazione i propri lavoratori o chiudere i propri uffici stampa, i propri uffici comunicazione, ecco, io credo che a queste aziende resti soltanto una carta, quella di rivolgersi a Federica Sciarelli e al suo Chi l'ha visto, nel senso che oggi se chiudi un ufficio comunicazione hai chiuso l'azienda, perché tu puoi fare un prodotto meraviglioso, poi qualunque cosa, ma se poi non si sa, non si conosce, non si vede, non esisti, ecco, questo è un monito che faccio a tutti gli amministratori appunto di grandi aziende, che purtroppo a volte non pensano che sia appunto tagliare l'ufficio comunicazione sia un po' perché sia un ramo secco dell'azienda, quando invece non lo è affatto. Comunque questo è un libro che è utile anche a chi, diciamo così, viene comunicato, cioè a chi è soggetto alla comunicazione. comunicazione, quindi per capire quali sono i segreti, se vogliamo, della comunicazione radiofonica o televisiva, giornalistica, cosa c'è dietro un po' l'informazione, e quindi essere capaci di essere più responsabili, più protagonisti anche nel giudicare l'informazione. Certo, assolutamente sì, anche di evitare degli errori, perché ecco, qui tra frasi fatte, anglismi, citazioni erudite, burocratese, maleducese, aggettivite, politichese, insomma, qui oggi siamo bombardati direttori da messaggi comunicativi, noi lo sappiamo bene, ma alla fine però bombardati, ma spesso l'era dell'informazione è prigioniera della disinformazione. In una società cross-mediale, cioè dove noi possiamo avere la stessa notizia sui telefonini, sulla TV, in radio, sulla Free Press, sui giornali, eccetera, però non, spesso non raggiunge tutti, e quindi ecco perché l'importanza della cross-medialità, che in Italia purtroppo si usa sempre meno. Io sono un fautore da sempre di un prodotto e comunicarlo appunto su tutte le piattaforme, e si parla appunto di multipiattaforma, su tutte le piattaforme di comunicazione. Due, di cercare di conoscere le tecniche, questo libro ecco, dà proprio questo, insegna le tecniche proprio per insomma rimanere efficaci, per lasciare un segno come faceva Zorro, perché cercare di evitare gli errori più comuni, che sono quelli per esempio di prendersi troppo sul serio, quelli di utilizzare un linguaggio aulico, orpelloso, magari per sembrare più intellettuali degli altri, utilizzare termini stranieri, ormai facci caso, charity, no? Charity, certo. Sono andato una serata dove una sei? Charity, anziché beneficenza, certo. Ma diciamo beneficenza, perché poi charity alla fine quante persone ne conoscono il significato, oppure so, hai fatto il recall, hai fatto il check, Paolo mi ha dato il briefing, domani facciamo un brainstorming, ecco, cioè, purtroppo noi italiani abbiamo anche questo grosso difetto, che siamo molto provinciali, per cui pensiamo che siamo, se sì. Mi consenti Igor, siamo anche un po' prolissi, ogni tanto, e tu nel tuo libro sì. Dici che per esempio in radio dopo 120 secondi l'attenzione tende un po' a sparire, quindi concludendo in 30 secondi, qual è un modo diciamo per fare del comunica buono? Comunica buono, non buonista, perché il buonismo è orticante più di una gastroscopia, almeno per quanto mi riguarda, insomma, e questo paese è farcito di buonismo, di ipocrisia spacciata per bontà. Appunto, cercare di fidare di quelli che quando vi danno il proprio biglietto da visita ve lo pongono dicendo ecco la mia business card, chiamami quando vuoi, con 24 titoli accademici e 64 onorificenze, prof.ing.cav, eccetera, eccetera. Poi barrano con un colpo di penna facendo sì che tu, io sono soltanto Mario per te, ma ovviamente sotto si legge tutto. Comunicare è alla base, ma chi è all'altezza? Ecco, con un mio aforisma mi piacerebbe chiudere questa nostra conversazione, perché insomma credo che sia importante anche la creatività, che insomma noi siamo sempre stati maestri in questo, ma ultimamente siamo un po' soffriamo un po' di stipsi creativa da questo punto di vista. Credo che dovremmo un po' riappropriarci della creatività, dell'ironia, perché altrimenti rischiamo di essere divertenti come i necrologi. Grazie a Igor Righetti, abbiamo parlato del libro Comunicare un successo, la cassetta degli attrezzi per lavorare nel mondo della comunicazione e dell'informazione, è edito da UTET, richiede un investimento di 19 euro, ha più di 300 pagine, quasi 340 pagine, ma anche per chi non è addetto ai lavori è una lettura interessante per conoscere questo mondo importante, anzi fondamentale, della comunicazione. Grazie a chi ci ha seguito, ci fermiamo un attimo, l'appuntamento è tra pochi minuti. Economia in pagina. Bentornati al nostro appuntamento con i libri di economia. Adesso parliamo con Marco Alfieri. Buongiorno Alfieri. Buongiorno a voi. Marco Alfieri è giornalista del Sole 24 Ore e ha scritto un libro, La peste di Milano. È un libro che dal titolo sembra ricordare I promessi sposi del Manzoni, ma non è un racconto sulla peste vera di Milano, è la peste di adesso di Milano. Che cos'è questa peste? Sì, assolutamente. La peste è ovviamente un titolo abbastanza enfatico che richiama appunto di manzoniana memoria, come giustamente dicevi. La peste è sostanzialmente la metafora, il paradigma di una città che convenzionalmente negli ultimi 15 anni, cioè dopo la cesura di Tangentopoli, appare bloccata, priva di un progetto di sistema, un progetto di città, e anche priva di riproporre quella capacità di costruire modelli emulativi per il resto del paese. Milano è stata una grande capitale, diciamo, lo è ancora ovviamente economica, l'ex capitale morale del paese, ha sempre trainato il paese verso l'Europa, e oggi sembra, diciamo così, il suo destino sembra un pochino incartato più che trascinare il paese in Europa rischia di essere un po' sprofondata. E io appunto nel primo capitolo riracconto la vicenda delicata e difficile del decollo dell'aeroporto di Malpensa e la difficile gestazione dell'Expo di 2015, proprio come la metafora di una classe dirigente che è incapace, dopo aver ottenuto una vittoria, aver costruito una grande infrastruttura, poi di metterla a sistema e di valorizzarla. Ecco, infatti la Malpensa è il classico esempio di una grande opportunità in cui ci sono tutti i fattori che potrebbero portare al successo di una grande infrastruttura al servizio dell'area più sviluppata del paese, che invece viene gestita sia per i collegamenti, sia per la politica nazionale, sia per tutto un insieme di fattori che sembrano complottare contro l'efficienza, contro la razionalità, contro lo sviluppo. Perché Milano non è riuscita a vincere questa battaglia? Colpa della politica? Beh, certamente la politica, come in tutti i processi complessi, ha ovviamente una responsabilità. Il paradosso appunto di un grande aeroporto, pensato addirittura ancora a metà degli anni 80 e poi portato a compimento a fine anni 90, nato appunto per dare i collegamenti intercontinentali all'area più sviluppata del paese, al pezzo d'Italia che sta in Europa e compete in termini di business e in termini di imprese, e che però appunto, costruita questa grande infrastruttura, la politica non è stata in grado appunto di metterla a fattor vincente. Non c'è stata, ovviamente c'è stato anche, come dire, una pigrizia romana, soprattutto di un'Italia molto romanocentrica, che non ha trasferito la base di armamento su Malpensa, quindi ci sono anche delle colpe, diciamo così, nazionali. Però poi la classe dirigente locale non è stata in grado, in maniera assolutamente bipartisan, di costruire una funzione nuova per Malpensa. Faccio un esempio: l'incapacità di ridimensionare l'aeroporto di Linate, cioè il City Airport, sulla nuova scala di Malpensa, e quindi un aeroporto cittadino comodo per i milanesi che finisce per far concorrenza all'hub, certo, a 30 km. I tedeschi o anche i greci a Monaco di Baviera o Atene, quando hanno aperto un nuovo grande aeroporto, hanno chiuso quello hanno vecchio, chiuso, esattamente. Ma a Milano non ha avuto il coraggio di farlo. Il titolo del secondo capitolo è La capitale dell'antipolitica. Perché questa antipolitica? Milano in fondo ha avuto dei grandi politici, del bene e del male, come possiamo giudicarli: Bettino Craxi e attualmente Silvio Berlusconi, che più milanese di lui forse non c'è. Perché capitale dell'antipolitica? Ma antipolitica perché, appunto, come giustamente dicevi, Milano è stata una città che ha sempre avuto un rapporto, diciamo così, dialettico con la politica, e però la politica a Milano è stata centrale. Tutte le grandi famiglie politiche del Novecento hanno avuto un epicentro a Milano. A Milano è nato il fascismo, ma c'è stata anche Piazzale Loreto, è stata la capitale della grande tradizione del socialismo municipale. Bettino Craxi era di Milano, Berlusconi di Milano. In fondo anche la Lega è un fenomeno lombardo e in parte milanese. Nel 93 la Lega conquista Palazzo Marino, non a caso. E quindi appunto una città che produce politica, ma che dal 92 in poi, cioè da dopo Tangentopoli, il modo che ha di fare politica è quello dell'antipolitica. Ricordiamoci che Tangentopoli è stato un fenomeno assolutamente nazionale, ne hanno parlato, forse l'ultimo grande fenomeno nazionale, ne hanno raccontato i giornali stranieri, però è anche fisicamente un evento che fisicamente succede a Milano, quindi c'è una cesura, e dopo quel momento il modo di fare politica che ha avuto questa città è appunto quella dell'antipolitica. Non a caso, in qualche modo, sia Bossi che Berlusconi sono dei fenomeni di politica nuova, che appunto io nel libro chiamo antipolitica. Ecco, in un certo senso però Milano, nonostante questa antipolitica, ha realizzato alcune opere. Pensiamo alla nuova Fiera di Milano, pensiamo alla ristrutturazione della Scala, è ancora una capitale riconosciuta nella moda, nel design, il Salone del Mobile attira ancora centinaia di migliaia di operatori, quindi ci sono dei fattori da cui Milano può ripartire. Quali sono questi fattori positivi? Sì, assolutamente, Milano è una città, diciamo, che ha eccellenza a macchia di leopardo, appunto citavi giustamente il design, ad aprile c'è la settimana del Salone del Mobile, che è l'evento principale, forse più internazionale, che possiede la città. Il fuorisalone è una specie, io nel libro la chiamo una specie di lunga notte bianca, che porta cittadini e buyer da tutto il mondo. C'è ovviamente la Scala, c'è tutta la grande tradizione fieristica, quindi ci sono dei fattori vincenti per far competere Milano nel mondo globale. E quello che manca appunto è una strategia, diciamo così, e torno ancora a bomba all'inizio del mio intervento, manca la politica, cioè un collettore che metta a fattor vincente e faccia rete su tutte queste eccellenze che restano diffuse ad arcipelago, ma se non hanno una regia rischiano poi di venire sottovalorizzate. Ecco, Stefano Boeri dice nel tuo libro questo sistema d'arcipelago che c'è a Milano nasce in una città che negli anni 60-70 è stata importante e propulsiva proprio dal punto di vista delle connessioni, cioè le connessioni tra istituzioni, tra luoghi di cultura, tra luoghi anche di intrattenimento, se vogliamo. Non ci sono più, c'è una città più frammentata, più individualista, un po' più divisa in fondo. Sì, è assolutamente così. Diciamo che è scomparsa anche la grande fabbrica e il grande patriziato, borghese, manifatturiero del Novecento. Cioè le grandi famiglie a Milano oggi sono in parte declinate perché ovviamente è cambiato anche il modello produttivo. È emersa una borghesia più spezzettata, più frammentata e più individualista, quindi è mutata la composizione sociale. Quindi è più difficile fare connessione, fare comunità. E quindi quella grande borghesia anche filantropica, illuminata che c'è stata negli anni 50, negli anni 60, che dialogava con le istituzioni culturali, dialogava con la politica, oggi segna il passo, ma proprio per un cambiamento, diciamo, sociologico, e quindi c'è più difficoltà, ci sono meno luoghi dove si fa aggregazione e comunità. Ecco, Marco Alfieri, autore, lo ricordo, del libro La peste di Milano, della serie bianca della Feltrinelli, in questo libro fa un'analisi molto approfondita di tutte le malattie di Milano, però guardando un po' in avanti e partendo dalla Milano di adesso, da tutti questi problemi e da questo in fondo incapacità di pensare alla grande, di pensare al futuro, di fare tante piccole cose fatte bene ma che non sanno aggregarsi. Allora, quale può essere il fattore aggregatore? Forse l'Expo del 2015? Beh, diciamo l'Expo è un treno troppo importante che sta passando davanti al naso di Milano per non essere preso. Ovviamente sono gli Expo, le grandi esposizioni universali sono fenomeni ed eventi novecenteschi, alcuni l'hanno anche criticato. Io sono convinto che invece anche nel terzo millennio possa diventare un volano importante, ovviamente un volano anche di reti immateriali. È per questo che mi duole la partenza molto stentata e anche i litigi che ci sono stati nel primo anno. Mancano 6 anni, c'è ancora tempo di recuperare e credo di sì che quello possa essere davvero il treno perché Milano possa, con cui Milano possa ripartire. Ecco, però la Milano della, diciamo, della popolazione, la Milano dei cittadini per ora non è coinvolta, non si sente coinvolta. In questo forse hanno avuto un influsso anche, c'è un capitolo del libro dedicato a questo, gli immigrati, l'immigrazione che forse Milano ha saputo accettare ma non ha saputo integrare? Sì, c'è una, nel libro io faccio una specie di differenziazione tra l'immigrazione degli anni 60, che era un'immigrazione, diciamo, autoctona, cioè di gente meridionale o anche gente per esempio dal Veneto che veniva a lavorare a Milano nel ciclo del boom economico, nel ciclo dell'edilizia, dei grandi cantieri. Oggi l'immigrazione è ovviamente diversa, un'immigrazione extracomunitaria. Allora Milano seppe integrare, probabilmente era anche più facile, dando alloggi abitativi, dando anche una dignità alle persone che arrivavano. Oggi questo è un pochino più difficile, perché ovviamente ci sono anche culture diverse, c'è una lingua diversa e quindi è appunto difficile integrare. Però Milano è diventata grande attraverso l'integrazione, attraverso l'immigrazione, e credo che anche qui una grande capitale europea, se Milano vuole continuare ad esserlo, non può che nascere dalla mescolanza dell'integrazione del diverso, che in questo caso appunto è l'immigrazione extracomunitaria. Ecco, peraltro però si dice nel libro che a Milano si abita dappertutto, sono 11.000 secondo una ricerca gli immigrati che vivono tra baraccopoli, aree dismesse, vecchie cascine abbandonate, mercati, circhi nei TGV posteggiati in stazione centrale, campi nobili regolari e non, giacigli sotto i cavalcavia e le scarpate ferroviarie. Ecco, non è un'immagine molto bella di Milano, che ha una grande tradizione anche di solidarietà, di apertura, di opere di carità, ancora adesso le mense per i poveri, ecco, però che non riesce ad uscire un po' dal fatto di avere una forte emarginazione al suo interno. Sì, assolutamente, il problema, citavi giustamente, il problema abitativo. A Milano in qualche modo un lavoro lo si trova sempre, in nero o diciamo salariato fisso con busta paga regolare. Il problema appunto è l'alloggio abitativo, che poi dà la dignità e dà il senso di un'integrazione vera. Milano ha problemi di abitabilità, non solo per le fasce più marginali, ma anche per un certo ceto medio che sta scivolando verso il basso. C'è una carenza non solo di case popolari ma anche appunto di case per le fasce, coppie giovani che non possono sopportare un mutuo molto, molto, molto forte in centro o in periferia. Se Milano non è in grado di aggregare questo tipo di forze, che può essere appunto immigrazione, nuova borghesia migratoria e giovani coppie, quindi giovani che danno linfa alla città, sarà difficile ripartire. Ecco, nella conclusione del libro si dice: quel che manca è un tessuto di pensiero capace di fare connessioni, di cui l'impressione di una grande massa di eventi e spettacoli e occasioni culturali che comunque Milano offre, ma insieme l'impressione diffusa che a Milano non accada mai nulla. Sì. È sconfortante. Sì, questa è un'immagine un po' paradossale, perché poi se uno va a vedere in maniera sfusa e frammentata, a Milano succedono sempre tante cose, magari sotto pelle non valorizzate, però si ha sempre l'impressione che in fondo Milano si stia un po' desertificando, no? Anche perché facciamo il confronto con le grandi capitali europee, e credo che questo sia appunto nella mia narrazione, nel mio racconto, nella mia analisi anche per il lavoro che faccio di giornalista, ho sempre questo retrogusto, cioè una città in cui accadono cose ma che poi non è incapace di fare massa critica, no? E quindi appunto qui ritorno ancora una volta all'inizio, cioè probabilmente questa antipolitica che non riesce a far condensa, non riesce a fare connessione, probabilmente è la causa di tutto, quindi bisogna ripartire da lì. Marco Alfieri, tu qualche tempo fa hai avuto l'occasione di andare a Roma, ma sei rimasto a Milano. In fondo la critichi, ma la ami. Assolutamente sì. Grazie, abbiamo parlato con Marco Alfieri del libro La peste di Milano, edito da Feltrinelli. Per leggerlo occorre investire 13 euro, ma sono spesi bene. Le pagine sono 173, ma si leggono tutto d'un fiato. Grazie a Marco Alfieri, grazie a quanti ci hanno seguito.